Il Castello Blu fu scritto da Lucy Maud Montgomery, amata autrice della saga di Anna dai capelli rossi, all'età di 52 anni. L'autrice, che abbiamo già presentato e di cui lasciamo il link in descrizione, era famosissima come autrice per ragazzi. Questo suo romanzo, tuttavia, non fu compreso e venne classificato all'epoca come fiction sentimentale dall'editore e dal pubblico spiazzati di fronte al suo contenuto che potremmo definire scottante per l'epoca. Era infatti il 1926 e quest'opera matura, che rivela tutta la frustrazione e la voglia di evasione che Lucy Maud viveva nel suo matrimonio, scandalizzò, non piacque, e finì nel dimenticatoio. La storia di Valency Stirling, questo è il nome della protagonista, è quella di una giovane donna che fugge dalle convenzioni e si apre alla vita e alla passione nella natura selvaggia. Non vogliamo anticipare nulla della trama di questo indimenticabile romanzo che si vorrebbe non finisse mai, una di quelle opere che rispecchiano un po' tutte noi e nella quale Lucy Maud riscrisse la sua vita come avrebbe voluto che fosse, usando la scrittura senza filtri come mezzo magico taumaturgico per creare una realtà alternativa. Molte altre autrici usarono la scrittura per guarire ferite della loro vita. Pensiamo a Astrid Lindgren, la mamma di Pippi Calzelunghe, immobilizzata a letto per una caduta. Pensiamo a Margaret Mitchell, che grazie al suo capolavoro Via col vento guarì dalla terribile ferita inferta al suo orgoglio dal divorzio. Diverse donne hanno affidato alla carta una sorta di terapia della scrittura e sono poi divenute autrici famose. La stessa Lucy Maud confessò in una lettera: "Così sono sempre riuscita a scappare da una intollerabile realtà e a salvare i miei nervi attraverso una doppia vita." Infatti, proprio in quegli anni, il marito, che già soffriva di depressione e manie di persecuzione, ebbe una crisi più forte e lunga delle altre, gettando Lucy Maud in uno stato di disperazione e sfinimento. La donna era al lavoro sul terzo volume di una saga di successo, Emily Climbs, ma si dovette fermare e cominciare un altro romanzo per dare libero sfogo alla sua angoscia. Ci mise un anno, ma alla fine Valency Stirling, ovvero la nemesi stessa di Lucy Maud Montgomery, prese forma. Il romanzo però non ebbe successo e rimase dimenticato finché 60 anni dopo, nel 1987, un'accusa di plagio mossa da una giornalista nei confronti di un'altra notissima romanziera nostra contemporanea, accusata di aver copiato Il Castello Blu, creò un piccolo scandalo e riportò alla ribalta per la sua modernità l'opera in assoluto migliore e incompresa di Lucy Maud, consegnandola finalmente a noi. Una nota interessante per noi della Scuola delle Donne è la descrizione della natura selvaggia del Canada che Lucy Maud descrive come energia cosmica divina. Poiché lei nel frattempo aveva cominciato a interessarsi di spiritualità mistica e trascendentalismo, sfidando i dettami del dogma cristiano e criticandone l'ipocrisia, come Scuola delle Donne siamo autorizzate a pensare che sia stata ispirata alla grande madre neolitica di cui ogni donna porta in sé la memoria cellulare, che ne sia o meno cosciente. Il Castello Blu, dunque, rappresenta la fuga dalla gabbia di Valency Stirling, che porta con sé l'anima dolente, stanca e disincantata della sua creatrice. La Scuola delle Donne è lieta di offrirvi Il Castello Blu di Lucy Maud Montgomery, Jo March Edizioni, traduzione di Elisabetta Parri. Da Devana, buon ascolto.